Allora, si dice. Dimmi che si dice. Sta cambiando il tempo. C'è freddo, tempo brutto. Tempo brutto, sì. Oh, cosa c'è? Un sacco di belle, perché. Questo cretino mio. Tutto già l'hai spazzato. Perché sta mancando, purtroppo sta mancando di nuovo. Io stavo cercando perché Daniele c'era la sua pelle. No, non ha mai avuto manco un sacco. Era sì, da me non ce n'è. Oh, non lo so. Se ci sarà, già la vita pensava in paura. Certo, devo avere pazienza. L'altra volta l'ho preso. Ci ho messo il filo alle 7:30 del mattino, si la 9:30. Domani. Come ti fai? Da voi cosa arrivi? Non arrivi nulla proprio. Per poco che arriva, fai subito da bricco, ma ti dici che sei una parrende la salita. Lo so, purtroppo è così. Non si può fare niente, è un casino, è basta. No, non è sempre per salutarti. Adesso vado a sistemarmi che ho sdraiato perché non sono molto in forma oggi. Ci sentiamo stasera se coincide, allora. Ok. Ci sentiamo stasera, non c'è problema. Ciao. Sotto il gas da poco. Ebbè, Popolio! Ebbè, uscia un po'. Ah, dove c'è? A contare se trovi il gas da l'altro qua. Vado a fare con lei che non si capisce nulla. Aspetta, vado. Adesso va bene, ci sei. Antone, buonasera. Buonasera a tutti. No, è troppo ripetitivo, velocemente, da piccolo. Sara va bene. Io ho capito. Antonello. Aspetta, avete parlato in due, cosa, Bobo? Sto parlando con il 4000, capito? Siccome c'è un frontalino del 2009, è totalmente diverso dalla cosa, la Colles 4000 originale, quindi lei con lo smacco lo vè, capito? Ah, ecco, perfetto. Adesso va bene comunque, sì. Sembra una telefonata, non sembra un po'. Va benissimo, ma la radio. Questo è il Colles 4000. Riprendi, Bobo. Ah, ok. Beh, allora ho sentito bene, te la fate voi due. Sì, appena entrati siamo, Siamo appena entrati. Poco fa c'era Claudio, è entrato un attimino. Era acceso, ma era basso volume, capito? Quindi non so chi ci fosse. Ma li state ascoltando? Sì, noi sono fuori banda, no? Qua c'è a Pomola, non c'è problema. Ma stasera è la fase. Rosa. Bene, ti ascoltando, sì. A voi ti ascolto bene i 40, 45 metri, a voglia. Già va bene. Meglio così, dai. Già trovo la distanza, aggiusta il microfono allora. Se no, come stavi dicendo ieri sera. E infatti, cazzo. Sei 9.25 comunque è più, quindi figurati tu, sto usando il Colles 4000, con un barattino adesso devo segnare giusti. Fa un passaggio, Anto? No, dove vuole provare. A conto dai l'apparecchio. No, non l'ho ancora aggiustato, sto usando quello di Giovanna. Capito, mi sono salito su quello per sapere qual è la distanza giusta. Sei 9.25 anche tu. Al più, devo smettere nel 2009, già lo sai come è fatto, quindi non c'è problema. Sei a radio, è malato, Ah, bella radio, sì, è ora. Ero secolo, non ti sentivo così forte. Lo so. L'avevo voluto questo barattino, un sacco di gente. Questo è con le 4000, caro mio. Ce ne sono pochi in giro, ce ne so. Ho preso anche il 2009. Aspetta appena sistemo con la resistenza. Ti faccio vedere, cazzo, sono gli unici apparecchi che volano qui a Sassari, come si deve. Va bene, altro che va bene. Va. Io sono con il batte della radio, non so nulla. Anche io sono il batte del barattino, la verità, Quindi figurati tu, se li metto lì è guai. Ma sono con il batte del barattino. Quindi. Se vai a vendere questo barattino qua ci vogliono non minimo 250 euro. Lo vendo. Questo è il Colles 4000, non è il 2009, quindi vale molto ma molto di più. Ecco, la mascherina del 2009, la verità, però è preciso, cioè devo cambiare io, la verità. Ho messo la maschera del 2009 al Condes 4000, è bello, ma veramente bello da vedere. Sarà come il mio, c'è la maschera del Super Star e un Pluto dentro. Bravo, sì, che ci sei arrivato. Sì, prendi gioco da. E che lo chiamo sempre Super Star, ma anche preso preciso, ho già mi Pluto, lo chiami Super Star, sempre loro show. Cosa, è la generazione tutti precisi quasi, c'è poco che cambia, poi ogni generazione ha le sue cose. No, questo è modello vecchio la verità, non è modello nuovo, quindi figurati. Gava, gava, sono i migliori, sono i migliori Antone, adesso prendi quelli... E fa me sono servo una cipa, non servo. Sì, a me buono. So che i nocchi non ha ciappe. Ma chi me ne sta arrivando adesso? Mamma mia, no, che noi siamo ieri sera, Cos'è? Che tu l'hai inteso? Cavolo, sta arrivando già forte, sta arrivando. No, lo so, qua ancora niente. Sto usando anche... Come si dice, il baracchietto sto usando, dai. A Pluto, per farlo andare anche a lui. E va bene. Pompo! Dimmi tutto, dimmi tutto, sono qua. Gava, bene, veda. Aspetta un secondo, arrivo subito. Via. D'accordo. Com'è? C'ho il coso, c'ho il... Come si dice? Insomma, tu ci riesci a controllarmela? C'ho una cazzo che c'ha un difetto, c'ha. Tu la te intendi? Di che cosa? Praticamente c'è il potenziometro di dietro che cioè, secondo come lo giri non fa funzionare la carta, capito? Quello dove alza il volume. Vabbè, ci vuole, ma con il lighizzo non mi fido. Tu ti fidi? Ci vuole proprio il CDC se vuoi andare, se vuoi farlo funzionare, se no tu cosa vuoi fare? Glielo cambi, glielo metti nuovo, funziona, ma no, non è mezzo, quello che glielo devi cambiare per forza, ma non cambia niente. Adesso vediamo più in là, anche perché stanno girando le palle, le altre quelle che ho preso da mio padre un po' di tempo fa, vanno alla grande, vanno. Queste no, non mi piacciono molto. Cioè, c'è qualche rondio, capito? È bello. Adesso vediamo cosa fare. Lo so. Purtroppo è così. Guarda, rondio, mi mancherà la folla per ricca dentro, cosa ne dici tu? Ho capito, ti mancherà? Che tolgo l'ecco. Ho detto, il ronzio sarà che gli mancherà la perrita dentro. No, da qui non c'è niente quello. Io sento il ronzio, sento dentro le casse. Non so cosa cavolo sia. O fa cosa lì, o gli manca qualche cosa, magari, o qualche componente, non... cazzo, no, non mi piace manco trattarli, dice, perché poi alla fine toccano bene, sono buone. Voglio trovare qualcuno capace che me le metta veramente a posto. Lo dico a Gavino, lo dico. Chi è? Prima Gavino c'è tranquillo, non è problema, non è che posso fare la cassa io, ma stai scherzando. Ma conosco le, cioè, lì c'è l'alimentatore, c'è tutto. Non le conosco le casse, capito? Non c'ho, come si dice, schema elettrico, non posso partire, hai capito? Così da zero. Quindi portano da video, li fai controllare, li fai mettere a posto. Se c'è un problema, li fai cambiare l'alimentatore, magari una pompa, è mezzo le pompato, oppure il transistor, quello che è, te lo metti a posto. Pino gliele faccio vedere, secondo me è l'unica persona capace che mi posso fidare. Anche da Giovato Giambaro, Ugheno, da Ghizio di Ben, Chibi, Piccolo Sasso. Ah no, non sono contento per niente, no. Vabbè, così me li ha cambiati, però non c'è qualcosa che non va. Io sento ronzio, sento. A me questa cosa non mi piace. E lo zio lo sai che c'è problemi di massa, quindi a un certo punto potrebbe essere un condensatore in perdita, non lo so. Lo controlli e lo sai subito cosa qual è il problema. Magari c'è un condensatore in perdita e ti fa quello zio, hai capito, ti fa Sicuramente c'è qualche condensatore in perdita, perché alla fine se le metto a posto bene le casse sono anche buone, pompano anche forte. E c'è un piccato che mi si girano, guarda, così le palle, che cazzo, sentire quel rumoraccio, mamma mia. Lo so, purtroppo, guarda, meglio dell'eco già è, come in quel circolo, a Futtidini. Quando è questione di ronzio, nelle casse potrebbero essere i cavetti, in perdita magari, di spinotti, niente di strano, segui passo passo e gli porti i cavi, con l'oggetto dell'amplificatore, e lui sa già cosa diavolo è, ingresso, uscita, quello che ti piace. Devi seguire passo passo la fonte, hai capito? A questo punto, quando ho i soldi, li porto da lui, perché cazzo non mi posso fidare di nessuno. Se li porto da qualcuno, cioè a farmele sistemare bene, a farle ascoltare cose, sono peggio di peggio. No, li porto da lui che mi fido di più, e cioè anche magari posso andare lì anche, cioè, parlarci, capito, siamo amici e cosa. Mi sono rotto le palle, che ti cazzo di cipitù, cazzo. Si credi da se chissà che non comprendi di nulla. Ho capito, ma tu vai, come ti dico io, li porti tutti i cavetti, li porti, fino anche l'amplificatore, dice guarda, ho questo problema qua. C'è questo zio, di alternata non so da dove diavolo spunta. E lui te lo toglie subito, li porti i cavetti, li porti l'amplificatore, li porti le casse, e lui ti... anzi, le casse c'erano già l'amplificatore a verità. Quindi a un certo punto ti toglie, prova con qualche mix che c'ha lui, e lui ci dice guarda, io ho provato col mix mio e questo mio non c'è. Allora potrebbe essere il mix tuo, non so. Ho fatto capire, magari è controllare, magari c'è qualche condensatore in perdita, non lo so. Quello che, lo sai che le casse sono amplificate, vabbè, io stavo parlando di un'altra cosa, di un amplificatore, poi ci mette le casse senza essere amplificate, eccetera, eccetera. Però, siccome mi sono ricordato adesso che tu c'hai le casse amplificate, quindi a un certo punto te le controlla lui, non ti preoccupare. Lui ti mette un ingresso di bassa frequenza e poi se ne accorge subito qual è il problema. Ma potrebbe essere uno spinotto, non lo so, che sta toccando, eccetera, eccetera. Già sono qua da lui, non ti preoccupare. Tanto non è che ti serve adesso, no? La verità. No, infatti, appena che posso che mi ne capo un po' di casini, devo fare delle cose, gliele porto, le salgo qua. Magari alto volume non si nota, ma a basso volume infatti il gatto drogoso a me no, cioè sono cose che a me non mi piacciono, capito? No, perché non può essere con un mixer, poi lo provo anche, cioè, c'ho anche le altre che vanno bene, non fanno nessun problema. L'ho provato col mixer grande, la matessi cosa, no. Io riesco a risolverle, quelle spingono anche molto, pompano forte pure, cioè a me ho delle casse come si deve. E allora c'hai qualche condensatore in perdita, non ti preoccupare, non è quello il problema. Porta la cabina dove già si è lanciato, non ti preoccupare. La cabina già me la metti a posto, qua sono convintissimo che me la metti a posto. Adesso vediamo più... paio di settimane gliele sacco e gliele faccio vedere. Ma non si buca, non si buca a finire una cosa del genere. Già lo so, infatti. Non so con chi, di chi fidarmi, so di chi, per, di chi fidarmi. Non mi fido più di nessuno, sono tutti incapaci. Sono trudioni, incapaci. Vabbè, già te ne metterò a posto del caso, non ti preoccupare. Sono ripassato più che altro. Qualche condensatore di perdita, qualcosa del genere, sono alimentazione. Lì siccome c'è la 220, lo sai anche tu. La 220 ti ha trasformato 12 volt, la 12 volt, direttamente alimenta il circuito, eccetera, eccetera. Quindi c'è poco da sbagliare. Sicuramente è così, c'è qualcosa in perdita. Ma lo fanno tutte e due questa. Questo tipo di rumore è strano, cazzo, ma... Cioè, anche l'altro lo fa un po'. Chissà che marazzurri vane, non lo so proprio. Vabbè, tu porta le gavine, poi le gavine nella salaggia, non ti preoccupare. Andare a girare, perché c'era 2 minuti che mi sto lontanando 2 secondi. Via, chi voleva entrare avanti? Ecchi, ci sono. E non ti è successo anche tu? Te l'ho detto cosa mi è successo. C'ho 2 cazze che mi danno ronzio, mi danno, a me mi tirano le palle, capito? Non so cosa sia. Ehi, cavolo. Perché stavo sentendo, non ho disturbato il nostro questo. E va bene. Guardate, ci sia qualcuno qua che te possa controllare e risolverti il problema, c'è un casino, Le porto da Gabbino, le porto. E chi è? Non conosce Gabbino, via Torre. No, tu. Almeno, cioè, secondo me lui mi riesce a risolvermi la situazione. Può essere anche una massa, che io non so. Può essere tutto, può essere nulla. Che non santo, può anche essere, potrebbe. Va bene, ma quelli chiusi per il karaoke. Eia, è un peccato perché anche pompano quelle, certo, toccano i voti pure. Mi ci diano così tanto le palle. Quali sono quelle grandi? Le grandi, perché le altre, le piccole, le avevo usate un po' di mesi fa che avevo fatto il gruppo Lumonti. Anche se sono più piccole, ma toccano i voti un bene. Va bene. Già va bene. Aspetta un attimo. Com'è la radio? Sempre buona, tu? Chi l'ha mossa la radio? Tranquillo. Va bene. No, io sto provando un video. Così ho dato altro mezzo giro. Va bene, infatti sono sempre fissi e fissi, allora che non facciamo anche così. Ora, così deve essere leggermente più forte, l'altro. Già, va bene. Caro, ok, sto parlando con Luca, ieri sera, tu ancora eri entrato. Mi sentiva tutto fuori frequente, tutto male. E invece come era lui il microfono proprio vicino alla bocca. Sicuramente, vi stavo sentendo, c'avevo l'antenna piccola attaccata. Io vi ascolto lo stesso io, anche se non ci sono. C'avevo l'antenna piccola attaccata e vi sentivo tutti. Cavolo. Adesso mi sa che attacco. Passo all'altro grande, anche questo visto che sta rinfrescando e non sta andando in protezione. Va bene, vedo così. Se metti i tappi poi si sai se ne va in protezione, capito? Scappa. Chiaro, no, invece lo sto facendo. Aspetta, forse ho capito cos'è l'antifacqua. C'è troppo ingresso, c'è questa cosa, guarda. Io faccio così. Hola, hola. Come Antu? Sempre bene, va. Tranquillo, già non è un problema. Faccio tante cose, dai. Lo fa di meno, senza tappi. Però sicuramente sembra una protezione, c'ha troppa radio sicuramente. Infatti era così prima, guarda. Ora. E via. Beh dai, ci sentiamo dopo che io ti lascio. Ok. Ehi, non vuoi, dai, già sono qua. Gava. Adesso si rientra con Pugno, mi faccio altri due passaggi con lui. Ok, da. Ah no, con tu. Antonio, ci sei? Ehi, aspetta un secondo. Gava. Arrivo subito. Gava. Ebbene, Natale, buonasera, ben sentito. Ciao Daniele, ben sentito. Buonasera. Buonasera. Ciao, come sei sciolto un piano e sei sciolto via Natale. Allucinante, tutti quelli presi da fusare si stanno sciogliendo. E non servono un cavolo, no, Daniele. Alla GBC devi andare a pigliarli. Oppure te li fai arrivare da fuori, di quelli buoni. E poi si è incasinato tutto qua. Ehi, è così. Perché sono passato l'altro giorno che mi serviva un paio di metri per di RG4 per fare le ispezioni, dai. È un po' di stagno e gli ho detto la marcia del TL che non servono a niente, questi stanno tutti sciogliendo. E lì cosa sta adesso? Che lo sa che purtroppo ha avuto una partita di TL che erano difettosi e non sa a chi rivolgersi per prenderli, che in quelle macchaliste è un casino trovarli, sembrano in macchalite, invece diciamo sono marroni ma non lo so. Più volte cosa vuoi ti dire? È un macello, eh. Beh, è fatto sai che stanno scendendo tutti quelli dove c'ho il drone attaccato. E si stanno tutti squagliando. Capito? Dopo un po' si squagliano. Io non ne ho, se no qualcuno te l'avrei dato. Ehi, vabbè. Ne ho ancora uno da lì. Finito questo, ho finito tutto. Per fare le ispezioni, capito? Per fare tutti i metti e tutti. Ehi, se no pazienza. Però così. Oh, yeah, un macello, già. Giovane. Cerco di riordinarmi, non fai bene. Cosa dico? Gava, gava, gava, gava. E Pomponio, spostatoci. No, ha detto che riprende subito, che stava scrivendo un numero di telefono. Che ha fatto, apposta. C'ho anche lo stesso problema, c'era anche Salvedi addirittura. Salvedi ho quella gancia lineare, tutto il tempo mi sparisce la ricezione, come se succede a me, e capito, più le palle in corso. Quindi è inutile stare a agganciare lineare, cosa del genere non conviene nemmeno. A un certo punto conviene ordinare tutti i piedi nuovi e fare gli spettroni come si deve e basta, non conviene fare altro. No. Quando a parte gli spettroni dei 58 non conviene più. O fanno tutti in corto, vanno, come scaldano, ciao, buonanotte. Eh sì, è così. È uscito proprio il... diciamo la quant'è il frondaio, cos'è quel cosa ottono, quel bianco dal piede è rimasto lì attaccato al rosmetro. Quindi figurati tu, quindi lascia perdere, non conviene, no. Ne ho già avuto problemi io, infatti mi ho bruciato i finali del lineare che stavo usando io, ecco, per riposarlo, quindi lascia perdere. Ah, se mi toccano 67,1 quei finali, a meno che non ci siano quei cinesi, se funzionano bene è bene, se no ci buttano il lineare, che cazzo vuol dire, piglierò un lineare a seconda mano, a 24 volte, gli aggancio quello, glielo metto sopra e se la piglia in culo. Altro non posso fare. Tanto secondo me si trova da quanti ne vuoi a 24 volte. E si conferma, proprio. No, per rifaglielo un capo, non vai dare su tessi nocchi. Ci sono Maria. Bobo. Andiamo bene, perché dice quelli che c'erano lei, ma Calita li stava mandando lo zio a Cagliari. Non ho capito cosa mi hai chiesto, perché mi sono spostato un secondo. Ha detto Marzia l'altro giorno, e quelli che ci aveva, quelli buoni, devi mandare lo zio da Cagliari, poi ce li ha finiti, adesso a trovare neanche lui. Ah, figura di tu, siamo fregati, siamo. Con queste pelle qua non come neanche attaccare il lineare, perché se attacca il lineare da 500 oppure di più, vanno in tilt. Me l'ha fatta a me, questo difetto l'ha fatto anche Savvino stamattina, davanti a me. Tutto un teatro non c'era più le cose, le baracchine. Con nuovo il tavoletto, un teatro pigliava e funzionava di nuovo. Come se scaldasse, capito, il polo centrale, eccetera, eccetera, e toccasse la calza. Quindi a un certo punto, ci vogliono, guarda, come una volta ci vuole, il piede, è meglio. Ma non si trovano, Antonetto, bisognerebbe ordinarli da fuori. Vabbè, ordinarli da fuori, cosa ho avuto ricca io, Natali? Ma non puoi stare cazzo così, no? Cioè non è proprio stare alla Mantova sopra un tetto, c'hai 6 metri di palo, che poi appena attacca l'ideale, prende il piede e se ne va a fanculo, cazzo. Cazzo dove scende, il tubo lo vuoi terra, non sai scemo, no? A un certo punto conviene tirare i piedi nuovi e moglio lì e rimango lì, basta, una volta che l'antenna è piazzata non devi più toccarla, Natali, è la stessa cosa tua, non è che tu puoi salire, per dire, soprattutto tuo, quando piazzerai l'antenna nuova e ci metti i piedi di merda, non puoi fare così, perché non ci puoi più salire, il discorso è quello, quindi una cosa rimane lì, basta, muori lì, il discorso è quello, ne toccare il palo, ne toccare l'antenna, ma il piede cazzo non si deve, cioè se tu ti metti a pompare per dire 300, 400 watt, 500 watt che se ne vanno in conto, non è assolutamente, cioè non serve a niente quel piede, non te ne vai nulla, mi hai capito? Sono piede in plastica, non sono in teflon, una volta le facevano in teflon, adesso le fanno in plastica, quindi a me comunque mi è successo così e ho bruciato il lineare e adesso sono le conseguenze, mi tocca 67 euro prima della guerra, perché prima costava molto ma molto di meno il finale, fatto male avevamo comprato di prima, costava intorno di 30 a 40 euro massimo, non di più, massimo mi costano 67 euro uno a farli arrivare, quelli originali. Purtroppo è così, Antonio, cosa vuoi fare? Io ce li ho due PL, ma mi servono per il capo nuovo delle antenne, devo piazzare, capito? No, già lo so anch'io quello, mica ti sto chiedendo i PL, Natalia, sono detto del fatto adesso, purtroppo i PL che stiamo facendo adesso non servono a niente, è inutile comprarli, è inutile metterli e basta. L'unica cosa è comprarli da fuori, installarli, saldarli e lasciarli lì, fissi, basta, non devi più fare altro. Non è che installi, ci metti i PL, lo piazzi sopra, attacchi lineare, per dire 500, 600 watt, dopodiché a un certo punto cazzo trovi tutto contatto, cazzo lineare, il PL che non riceve più, cazzo. Sembra che sia in corsa a un certo punto, devi salire sopra, attaccare tutto il palo, basta, scherzo, oh, non esistono. Una volta questi problemi non ce l'avevamo, adesso purtroppo stanno facendo PL di Bertola cinesi, quindi vanno in conto subito, come scalda il positivo, si scioglie e quindi va in conto. È che non si trovano a comprare neanche quelli Ampenol, quelli da fuori magari. Media Globe ce li ha. E cosa? È PL Ampenol? Sì, ce l'ha in batterie di due tipi e poi Ampenol. Per essere sicuri è meglio comprare quelli Ampenol. Ciao a tutti, io sto cucinando. Sì, bisognerebbe fare un ordine comune. Anche a me servivano perché devo farmi vari spezzoni e vorrei farli con quelli in bacchelite. Bisogna metterci d'accordo, mettere la quota in modo da ammortizzare le spese di spedizione. Dai, buonasera a tutti, sono solo in ascolto. Ciao, vai Antone. Vabbè, per quello non c'è un problema, già lo sai. Io sapete a me arrivano quei soldi lì, faccio la richiesta di quell'antenna e dopodiché ci metto anche i piedi nuovi, ce la faccio questa pezzata l'antenna nuova, i piedi vecchi, cazzo, il palo vecchio che è in corto, eccetera, eccetera, quindi devo cambiare tutto, devo cambiare, quindi a un certo punto non mi viene ancora. Cambierò tutto e lo fa ancora. Adesso aspetto solamente che quello mi paga, una volta che mi paga, io ti do il via. A meno che lascio la moto, poi se la piglia in culo e mi piglio quei ripetitori Parrot e sono più tranquilla. A me non mi diverto a un certo punto. Adesso vediamo un po', deciderò a cosa fare. Comunque il PL già me li compro, perché quelli ci vogliono. A meno che non ci sia un miracolo che apra quel laboratorio là famoso, che lui i piedi in bacchetti ce li aveva, buttateli, me li prendo e me li piazzo. A me mi servirebbero. Secondo quanto costa non ne prendo una decina di PL, Anfeno. Sì, e devo ripiazzare nel rubinetto. Perché nel rubinetto? Non ho capito. Ma dove fai 10 PL in Anfeno, scusami? Se ne bastano due, uno l'antenna, uno giù, uno l'antenna, uno giù e sono quattro, ma non 10 no, cazzo. Usi futuri. E poi gli spezzoni, almeno te li fai come si deve, capito? Sono in Amphenol e non li butti via. Allora sai quanti spezzoni c'ho che non servono qua? Ah, gli spezzoni di costo diverso, ma se me li faccio bene, me ne ordino 10, poi quelli che avanzano discorsa. Sì, Antonio, tanto quello è una cosa che non è che butti, rimane, quando hai bisogno fra un mese, un anno, 10 anni, li puoi anche vendere, rivendere, a un prezzo più caro ovviamente. Vabbè, come il grano, quando mancherà la pasta, come si chiama, venderemo i PL, cazzo, questo è il grano. A posto di vendere magari piede 2,50 le prendiamo 10 euro, che bello cazzo, un piede 10 euro, ne abbiamo 20, cazzo, a voi che c'è l'incasso. Infatti a devo piazzarne tre di antenne, tre, anzi quattro, quindi penso che mi servano i PL, no? Capitalista. No, bisogna fare i soldi, sai, ormai ci sono, non c'è più nulla in giro. A un certo punto, a me però non c'è un mandato cinese, ma mi sembra un pochino strano, hai visto che dobbiamo fare già sconta di tutto, quindi via, che andiamo in qualche negozio che è stato fallendo a recuperare un po' il piede, capo, capo di 13 antenne, quello che dove vediamo qualche azienda fallire, immediatamente andiamo e recuperiamo. Pagando mai 10 euro, forse è stato di porcellana. E ma che dite, quelli già, adesso se li trovi, già li paghi, non ti preoccupare. Infatti stavo dicendo a Marco, prendiamo quelli Ampenor, perché non si sa che siano difettosi quelli in bacchelite e facciano scherzi brutti, siccome io devo piazzare le antenne, piazzo quei PL buoni. Sì, allora gli Ampenor non so bene come siano, però li ho visti proprio ieri dal sito. A me piacciono più in bacchelite. Ciao Antonio, non sapevo ci fossi anche tu, ne stavo facendo prove sul 19. Io già i bacchelite li ho provati, quelli bacchelite scura e problemi zero, zero. L'importante è fare bene la saldatura sul centrale e avvitare bene la calza. Va bene signori, dai, sono i fornelli, riprendi Antonio. Ah, per i prezzi, quelli in bacchelite costano tipo sotto i 2 euro, tipo 1,75, 1,95, ce lo compri qua, te lo fanno a pagare col sangue, vabbè, lo sapete, no? E già io e Marco ci mettiamo d'accordo e ce li facciamo arrivare un po'. Almeno una decina io Ampenor li prendo, gli Ampenor sei più sicuro, almeno sono buoni. Scusate un attimo, ma cosa fate arrivare? Quelli con la datatore o quelli come cavolo sono? Che vanno bene per le RG58, 213, ma 213 intendo a me. 213, o come li fate arrivare? Quelli che vanno bene col capo grosso o quelli che ci vuole l'adattatore? Come sono fatti quelli? Marco. Scusa Antonio, ho chiuso la finestra. Ho chiuso la finestra del bagno, dimmi, cos'hai chiesto? Ho detto, come li fate arrivare? Quelli che ci vuole il capo grosso o quelli normali? Dipende da quelli che vuoi tu. A me serve per le ispezioni, quindi cavo sottile RG58 oppure H155. Natalino adesso non mi ricordo che cavo abbia messo, potrebbe fare metà e metà, cioè l'importante è che siano disponibili, anche perché a me serviva un carico fittizio di quelli piccoletti da 100 watt, quelli tondi della Daiwa, e forse anche un selettore d'antenna a due posizioni, sempre della Daiwa, no, super balle, carico fittizio è Diamond, selettore antenna possibilmente Daiwa. Se ti fate arrivare un paio me li prendo pure io, me li compro, perché a me non me li tengo, perché sennò chi vende il fusaro deve stare attento con lo saltatore, perché sennò che li... devi stare molto molto attento quando tu li saldi quella roba lì, perché sennò sciogli tutto. Eia, ho sentito un bec, chi è? Mi chiama Claudio, dimmi Claudio, ciao. Ciao, Massa, guarda che quando tu ordini PL, ok, ti danno il PL duro, quindi per capo grosso, e poi sono obbligati a darti anche l'adattatore. Io ho ordinato 10 PL, Anfano, da fuori, e mi hanno mandato assieme le PL anche l'adattatore per il capo fine. Quindi non c'è problema, tu le chiedi. Il PL è completo, anche con l'adattatore, e te lo mandano. No, perché una volta ho usato degli adattatori che non mi ero trovato tanto bene, capito? Da giorno non ne ho comparato più. Ma si avvita come quello là, si avvita o sono diversi? Come sono fatti? È uguale, non cambia niente. Il PL è trovato nudo, quindi con la fregatura grossa, per capo grosso, tutti ci fila l'adattatore, sono universali gli adattatori, non c'è problema. Bolzano quella partita era fatta appunto sbagliata, quindi adesso c'è il PL buono, il partito complettivo con l'Interfrom Marrone. Ne ho occupato due soli però perché mi servivano per fare un lavoro così di prova per non mettere gli anfano, per non saldare gli anfano, capito? Quindi c'è il PL, normalmente quelli sono mediocri. Però comprate PL buoni e cavi buoni, ok? Buonasera a tutti e vi risaluto Emanuele Corix. Vai Marco. Dove li hai comprati Claudio? Quelli Amphenol che mi servono a me, Amphenol. Media Globe, ce li ha Media Globe, ce li hanno tutti. Cappa, vabbè là. Allora ci mettiamo d'accordo Marco, li pigliamo, io li voglio Amphenol però. Sì, guarda, proprio ieri l'ho visti a Media Globe. Mi stavo guardando, io ho uno spezzone, quello migliore di tutti, e Claudio a quel proposito, io preferirei prendere PL però senza riduttore, cioè sempre che siano disponibili, per RG 58 però senza riduttore, cioè nativamente già col bocchettone di dietro piccolo, in modo che avviti la calza bella stretta. Guarda, questo spezzone è un bijou, gli altri erano, con il riduttore erano più brutti, mi venivano più male, ma questi erano formidabili. Anzi ti dirò, questi addirittura hanno ancora l'elettrico bianco, non so se sia Delrin, se sia Teflon, se sia plasticaccia, però questo in particolare ce l'ho da tanto, già da 12 anni, mi era venuto molto bene con questi tipi di, però non li ho più trovati uguali, capito? Che sia uno spinotto di tipo lungo, cioè un PL di tipo lungo, non quelli corti. No Marco, se ordini quelli per RG 58 diranno la lattatore. Ok, tirano l'adattatore, oppure se lo vuoi senza l'adattatore sono quelli filettati corti che non servono a niente, assolutamente a niente, capito? Quindi vi consiglio di prendere l'adattatore, sbucciate bene la calza, la tirate bene indietro, infilate prima l'adattatore che faccia ben contatto sulla calza e poi lo avvitate al PL, una volta che è uscito il cavo fuori, una volta che è saldato lo avvitate. Io non li potevo vedere, la verità. Non li ho più usati perché non li potevo vedere, ma manca appena. Ho usato quelli lì, è tutta un'altra storia. Cioè, li avevo trovati buoni, un paio, li avevo, la sai cosa li avevo fatto? Accetti, li avevo cambiato, siccome non ci abitava bene, li avevo sostituito il barilotto per abitare. E andavano bene. Quelli a partita di Fetosa che era avvenuta, che non abitavano, andavano un bel bene qua e ce l'ho ancora a casa, però capo non li potevo vedere, io quello con l'adattatore non li potevo vedere. Break. Fatti il break. Buonasera a tutti, doppio lungo. Ciao, buonasera. Ciao Antonio, ciao di te. Ciao, tu sei sempre qua, come mai? Perché un po' di meno potenza, perché in poche parole il computer si bloccava il mouse o la tastiera, quindi ho dovuto abbassare il bus. Tranquillo, tutto a posto. Ah ok, va bene, dai. Ciao Marco, c'è tutti gli altri amici, dai, avanti Marco, perché sono un po' di tempo che non ti sei. Ciao Gianni, io sono in chiusura, comunque ti ascolto non bene, fammi sentire la radio che piace a me, perché ti sto ascoltando un po' complesso. Ci sentiamo ragazzi, c'è anche Natalino, niente, rimango in quelli X. Guarda, se tocchiamo il microfono al massimo, guarda. Sì, ma non è quella che sento io bella forte rimbombante, ti sento un po' complesso, non so gli altri, boh. Tu lo senti bene? A chi? Cosa? A chi sento bene? Non è che sia un granché. No, già lo sento, va. Saturo. Mi ha separato in quattro, cazzo. Cosa hai detto, Natali? Sto cercando qui PL su internet, là. Ehi, va bene. Sì, leggermente Saturino, già. Ti toglie quella amplificazione bella che hai sempre. devi cercare di trovare un compromesso con questo Colgarci. Una potenza media, oppure metterlo al massimo e non attaccare niente, perché tu portare via la modulazione che è bella, capito? Tutto qua. Va bene, buonasera a tutti, cambio per te Gianni e ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao a tutti. Ciao, ma sto uscendo con la potenza normale, non sto uscendo con la potenza normale. Non è quella che piace a me, non sai che io ci vado alla radio, sono molto attento, è molto bella, una bellissima amplificazione, bella chiara, ti sento un po' compresso. Ho provato a cambiare anche radio, sono andato sull'altra, ma è sempre la stessa cosa, qui qualcuno ha confermato, non ho capito chi sia. Non vorrei che sia solo io che ti ascolto così, perché io la tua radio è forse la migliore che c'è. Però ti ascolto molto complesso, molto complesso. Chiusa, non sento quegli acuti che piacciono a me, capito? Va bene, vedi un po', se riesci a fare qualcosa, siamo pazienti, non c'è problema. Tu prendi e fai girare la ruota, io rimango in ascolto. E allora la buco lì. Avanti! Scusate che sono dovuto ancora in bagno. Claudio, volevo chiedere una cosa, se può fare questa greca al 12 o al 13? Vai al 12, perché questa non è memorizzata la radio, quindi non sono frequenta. Aspetta che mi scusi al telefono. Ciao Gianni, ben entrato, eccetera. Ciao Marco, dai. 12 come sto facendo di radio? Perché ciao, Claudio dice che invece te sarà. Allora, quella è una cosa che ho notato anch'io, con tutti i baracchini e non con uno, col 3009, con tutti. Tu c'è una radio discretamente buona, però c'è come la lievissima saturazione, lievissima. È come se stessi usando l'apparato con la potenza al massimo, come se stessi tirando appena appena il collo al finale, intendo. Aspetta, dai, ma io per sentirla devo attaccare l'orecchio al baracchino, eh? E si conferma Gianni, sei un po' nasino, è come se fossi il saturo. Buonasera comunque. Ciao Dani, e adesso guarda come va. Forse meglio, sai quando te lo fa Gianni, soprattutto quando ti allontani dal mic, quando senti poco ricatto, quando ti allontani dal mic si sente più nasina e più come saturina, ma è una cosa appena percettibile, però non è limpida come era mesi fa, anni fa il Saturn che tu avevi, capito? Ora sta facendo qualche concorrente penso, perché ogni tanto lo fa, poi si riprende, poi lo fa di nuovo, poi si riprende di nuovo, deve essere stampato qualche componente sicuramente. Poi sai, in base al baracchino, in qualche baracchino me ne accorgo di più, in qualcuno me ne accorgo meno, stadi di ricezione diversi, ma è una cosa comunque non preoccupante, ma appena percettibile. Però sì, no, un orecchio un pochino, un coso si nota, capito già. Va bene, io comunque devo staccare per forza perché sennò i fornelli non combino niente. Io rilancio per Daniele e rimango in bianco. Vai Daniele. Ehi Marco, buon proseguimento, dai. Buona cucinata. Dai, riprendi già che io sto facendo qua un piede, mi sa che ho fatto. E io ho provato a cambiare il microfono, Dani, guarda se va meglio questo. È un'altra cupa, già. Sempre cupa? No, un'altra musica, va molto meglio. E allora riprendo dal microfono, c'è qualche cosa al microfono. Questo qua è il Turner, questo qua è il Turner super.